La protesta nasce da quelli che sono dei dati oggettivi. Noi abbiamo in Italia una situazione di sovraffollamento perché se davanti ad una capienza massima di circa 42.000 detenuti ve ne sono rinchiusi oltre 56.000, il che rende appunto impraticabile qualunque trattamento rieducativo, o così come rende impossibile far funzionare proprio tutta la macchina dell'amministrazione penitenziaria. Le condizioni che hanno generato questa protesta, quindi, secondo noi, possono essere risolte soltanto attraverso delle riforme che chiamano in causa direttamente il Parlamento. Noi chiediamo un provvedimento di indulto generalizzato che in un qualche modo permetta di ristabilire un minimo di equilibrio, di vivibilità all'interno degli istituti. Senza questo provvedimento le altre riforme non possono sicuramente passare. Chiediamo ad esempio che venga finalmente definito per legge l'obbligo di applicazione della legge Gozzini e chiediamo che sempre per legge venga regolamentato in modo definitivo gli abusi che si compiono nell'utilizzo della carcerazione preventiva. Tutto questo ovviamente richiama direttamente, come dire, le responsabilità del Parlamento. In Sicilia in questo momento stanno scioperando 15 istituti penitenziari e in alcuni di questi istituti, oltre a vivere proprio letteralmente sotto il livello del mare, a Favignana ad esempio, in alcuni di questi istituti manca letteralmente l'acqua potabile, così come lo stesso tipo di problema hanno in uno dei due carceri di Civitavecchia. I detenuti all'interno del carcere, in molti istituti hanno organizzato dei piccoli gruppi di 10-12 detenuti che effettuano un vero e proprio sciopero totale della fame, accompagnato da forme di protesta diverse che cambiano di settimana in settimana da parte di tutti i detenuti, ad esempio lo sciopero del vitto dell'amministrazione, una settimana lo sciopero dei lavoranti, un'altra settimana il prolungamento delle ore d'aria e così via. Sono tutte forme di protesta assolutamente pacifiche che poi ogni carcere, come dire, calibra secondo la sua possibilità concreta. Quello che vogliamo è sottolineare con questa protesta la drammaticità della situazione e via via, noi siamo certi, insomma, altre decine di istituti si stanno aggregando a noi. Noi tra qualche giorno rivolgeremo un invito alle commissioni giustizia di Camera e Senato e al comitato carceri della Camera, rivolgeremo un invito di, come dire, rifare il punto della situazione che anche molti gli onorevoli hanno potuto verificare recandosi negli istituti penitenziari nel corso degli ultimi due anni, in particolare nel corso degli ultimi mesi, per definire insieme quali passaggi concreti si possono compiere verso i provvedimenti che noi riteniamo indispensabili. Abbiamo notato con piacere che il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, l'onorevole Pecorella, già ieri in un qualche modo iniziava a rispondere a queste richieste provenienti dal mondo dei detenuti.